I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Oggi esiste una sola notizia, non si può non parlare della più inattesa, imprevedibile e pazza elezione americana. Su un punto vale la pena di riflettere: il fallimento dei sondaggisti. Sono una categoria professionale ormai destinata alla cassa integrazione. Non hanno indovinato Brexit, non hanno capito nulla delle elezioni americane. Nel sito The Hive, un tweet lapidario coglie bene il punto. I sondaggi hanno ormai la stessa accuratezza delle previsioni astrologiche. I grandi sconfitti, oltre ai democratici sostenitori di Hillary Clinton, sono effettivamente i modelli matematici che hanno assicurato per mesi una vittoria larga o di misura, ma comunque certa, proprio a Hillary Clinton. Il New York Times ieri salutava l'Election Day assegnando a Hillary l'85% di possibilità di conquista della Casa Bianca. Analoga conclusione in molti altri siti che usavano sistemi di previsioni proposti dalle varie superstar della statistica a stelle strisce. Nate Silver, l'ideatore di un sito seguitissimo che si chiama 538, ha sempre concesso a Trump solo una possibilità su tre di diventare presidente, e il suo competitor, Sam Wang, del Princeton Election Consortium, gli assegnava addirittura l'1% di chance di vittoria. Dietro a tutto ciò ci sono algoritmi, formule e calcoli applicati evidentemente su realtà profonde e non affatto conosciute. Quelle di un'America del ceto medio impoverito, delle classi emarginate, dei cittadini spaventati da un mondo in fortissimo cambiamento che non sa ancora dire dove andrà a finire. Sono persone che di fronte alle domande dei sondaggisti preferiscono non rispondere o rispondere bugie per camuffare le loro effettive intenzioni di voto. Un paese che un po' si vergogna, quindi, ma che affida al segreto dell'urna tutte le sue frustrazioni, e a pagare il conto purtroppo è il mondo intero. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.